Italia in controluce, la politica nel tunnel. Parliamo delle quirinarie, annullate, il voto online per la scelta del candidato al Colle si sta ripetendo oggi, così scrive Claudio Messora, responsabile della comunicazione del gruppo 5 Stelle al Senato. Perché nel comunicato il Movimento 5 Stelle denuncia attacchi da parte di hacker, anche se l'allarme potrebbe essere nato dal fatto che in molti hanno segnalato che erano riusciti a votare due volte. Lo scrutinio del voto online è gestito dalla Casaleggio Associati. Diciamo che Casaleggio gestisce di fatto il voto online, mentre la verifica di questo meccanismo procedurale è fatta da un ente certificatore terzo. Sono arrivati moltissimi messaggi di vario tipo, la rete è inondata di prese in giro anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Qualcuno scrive che sono state annullate perché c'erano troppe preferenze per Romano Prodi, ma la comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle parla di un attacco da parte di hacker. E alla 349-238-6666 mi chiediamo se fa bene il Movimento 5 Stelle ed è giusto scegliere il Presidente della Repubblica online, cioè se questa è una procedura che vi convince, oppure lo devono fare i senatori, i deputati, cioè le persone che stanno all'interno del Parlamento, che poi dovranno votare di fatto il nome del nuovo Presidente della Repubblica. E tutto questo accade il giorno della presentazione del lavoro dei cosiddetti saggi. Allora scatenatevi come sempre ogni giorno, 349-238-6666, poi leggeremo i vostri sms. Allora mi collego subito con Andrea Viali per capire a che punto sono queste quirinarie. Beh, il punto è che è tutto da rifare per queste quirinarie, lo ha detto stamattina lo stesso Beppe Grillo, ha spiegato che c'è stato questo attacco informatico e quindi si è deciso di annullare il voto online di ieri. Ti leggo le sue parole: è stata riscontrata un'intrusione esterna e siamo riusciti a determinare le modalità con cui è avvenuto l'attacco, abbiamo quindi deciso di annullare le votazioni di ieri e di ripeterle oggi con nuovi livelli di sicurezza, così ha spiegato il comico, che si è scusato con chi evidentemente aveva espresso la sua preferenza. Le quirinarie, lo dicevi, sono gestite dalla società di Gianroberto Casaleggio, che lo ricordiamo l'esperto di comunicazione, braccio destro di Grillo, e lo dicevi, le procedure di voto sono state certificate, da un ente terzo, una società che si chiama DNV, la quale in effetti stamattina ha confermato che è stata rilevata un'anomalia che ha compromesso la consultazione. Bene, nonostante queste spiegazioni, però c'è da dire che su internet e sullo stesso blog di Beppe Grillo in molti da questa mattina stanno ironizzando su quanto accaduto, su questa decisione di annullare le quirinarie e sulla trasparenza di questa consultazione, che comunque sia è ripresa, sta andando avanti, si concluderà alle 21 di questa sera, verrà definita una lista di 10 nomi dai quali lunedì, con un nuovo voto, diciamo un secondo turno, emergerà quello che sarà il candidato 5 Stelle per il Colle. Lunedì si dovrebbe sapere anche quanti sono stati poi alla fine gli iscritti al movimento che hanno partecipato alle quirinarie, altro aspetto sul quale a tutt'oggi c'è poca trasparenza, Daniele. Grazie ad Andrea Viali. E allora stanno arrivando moltissimi sms, poi alla 349-238-6666 vi ho chiesto se secondo voi fa bene il Movimento 5 Stelle a scegliere il Presidente della Repubblica online e se questo può essere un meccanismo. Nel frattempo sono entrato dentro nel sito di beppegrillo.it ed effettivamente ci sono moltissimi messaggi, da Paolo Bruschi che dice: si ha notizia di una nuova occupazione dei parlamentari nella sala del server, a fanpage che dice: le quirinarie del Movimento 5 Stelle, rivota, sarai più fortunato. C'è un pezzo di satira così anche abbastanza divertente. Da Domenico Cerabona che scrive che comunque il problema è che non avevano leccato la punta delle dita prima di votare, ad Alessandro Clemente che scrive che più che Casaleggio mi inquietano gli associati, Onore a Grillo scrive una, su Twitter, scrivono i mille, così, con una foto di Garibaldi, non ci chiama più trolls ma hacker, questo è davvero riconoscere dignità all'avversario. Fausto Ciccio dice, la democrazia non si improvvisa con un blog e un server, con la brodo, il voto è sacro, non roba da sbanettoni, e così via, ce n'è per tutti i gusti, li trovate in continuazione su beppegrillo.it, che ha lanciato questo pezzo chiamato Presidente della Repubblica 5 Stelle, io rivoto il mio Presidente, e dice e scrive Grillo che le votazioni per il Presidente sono state oggetto di attacco di hacker. Andiamo ai vostri SMS. Secondo me non fa bene, la democrazia diretta è pericolosa, secondo Corrado da Como. La ripetizione del voto è stata imposta dall'ente certificatore, quindi la trasparenza è garantita, democrazia partecipata giusta, non conta lo strumento che si utilizza, dice Roberto da Roma. È giusto, siamo nel 2013, usare un blog anche le elezioni politiche dovrebbe essere cosa da avere paura. Cosa avete paura? Per favore smettete di dire che Casaleggio è il braccio destro di Grillo, che scrive un ascoltatore, perché Casaleggio è la mente occulta e Grillo è il pupazzo. Un altro ascoltatore, perché non fanno un sondaggio online su possibile appoggio al PD? Forse perché Grillo non è quel pioniere della democrazia sul web che vuol far credere. Tutti a sindacare il Movimento 5 Stelle, ma gli altri partiti fanno ancora più schifo, dice Ivano. Un ascoltatore ci chiede che dubbio è il vostro. Non c'è nessun dubbio, è una domanda. Una domanda non è un dubbio. Altri ascoltatori, una buffonata. La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica lo eleggono le Camere, e le Camere sono appena state elette. Grillo deve rispettare il voto popolare, dice Giuseppe. Mi sa che va a finire come nel film Benvenuto Presidente, votiamo tutti. Giuseppe Garibaldi, il ciao Paolo, di cosa ci vogliamo lamentare? Del fatto di poter partecipare attivamente per la scelta del capo del nostro Stato? Ma allora che cosa si intende per democrazia? Roberta, non sappiamo da dove. Certo che è giusto, il popolo è sovrano e i senatori sono alto, dice Nicky da Bari. Come sempre tantissime segnalazioni, ne arrivano veramente a centinaia di secondo in secondo, ma oggi, vero Elisabetta Fiorito, è il giorno dei saggi. Sì Daniele, intanto cominciamo a dire quello che vediamo dagli SMS, no, dei nostri radioascoltatori, che esiste una democrazia diretta ed esiste una democrazia rappresentativa, e noi sappiamo che il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, e dalle Quirinarie noi passiamo al Quirinale, perché Napolitano, il Capo dello Stato, ha appena dato un monito, forse l'ultimo del suo mandato. Ricordiamo che il 18 aprile, cioè giovedì prossimo, le Camere sono convocate in seduta comune a Montecitorio per eleggere il nuovo capo dello Stato. Il Napolitano ha detto: i partiti collaborino per il governo. Quindi un monito, l'ultimo, è proprio che a un certo punto, chiudendo il lavoro dei saggi, il capo dello Stato ha detto: dai due cicli di consultazioni da me tenuti senza perdere nemmeno un giorno dopo l'insediamento delle nuove Camere, è risultato chiaramente che solo da scelte di collaborazione che spetta alle forze politiche compiere può scaturire la formazione del nuovo governo di cui c'è urgente bisogno. Le forze politiche che ricordiamo in campo sono varie, c'è anche il Movimento 5 Stelle che ha ribadito il suo no, ma intanto sembra profilarsi un accordo, almeno per il Colle, tra il PD e il PDL, perché Silvio Berlusconi ha detto sì anche un candidato di centro-sinistra, ha spiegato che per lui la questione del salvacondotto non esiste, anzi l'amnistia non va fatta perché i cittadini, dice il Cavaliere, non capirebbero, non sono preoccupato per i miei processi, ma ha detto che però va bene un candidato al Colle del PD, ma solo se si fanno larghe intese cose per traghettare il paese fuori dalla crisi. I saggi intanto hanno consegnato il loro lavoro al Presidente della Repubblica. Questo lavoro verrà tenuto caro dalla prossima settimana dal nuovo capo dello Stato. Nel PD c'è da segnalare invece il caso di Fabrizio Barca, il ministro per la coesione territoriale, che lancia un manifesto per il rinnovamento del partito. Però, dice, è critico nei confronti di Matteo Renzi. L'idea è quella di entrare nel gruppo dirigente, perché non c'è democrazia senza partiti robusti, e quindi il PD è di sinistra, basta ipocrisie, e non di centro-sinistra. Insomma, Daniele, è sempre molto in evoluzione la situazione politica. Bene, intanto sono arrivati centinaia di sms, sono molto contento. Qualsiasi esperto informatico mi dirà che Inter non è mai sicuro al 100%, ci ricorda Simone Racchietti. L'ennesima buffonata, Giampi da Mantova, è giusto che il popolo scelga, ma i metodi di Grillo sono pochi e trasparenti. Se il sito è sicuro e trasparente, certo che nel 2013 dobbiamo votare online, dice Cinzia Guarnieri. C'è chi ci accusa di criticare Grillo perché abbiamo fatto una domanda che tutti si fanno, cioè se è normale, se è giusto scegliere il Presidente della Repubblica online, visto che poi qualcuno ci ha detto che sono state annullate perché gli hacker sarebbero stati i protagonisti dell'attacco. Quindi c'è qualcosa che probabilmente non funziona. Comunque vada, e comunque la pensate, questa è Italia in controluce, il vostro appuntamento, l'appuntamento con l'informazione e l'approfondimento. Siamo su Facebook, utilizzateci, pagina, gruppo e Twitter, oppure controluce@radio24.it.